dell'alto scende virtù che m'aiuta conducerlo a vederti e a udirti. Or ti piaccia gradir la sua venuta, libertà va cercando che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Tu sai che non ti fu per lei amara e inutica la morte, ove lasciasti la veste che al gran dì sarà si chiara. Non son gli editti eterni per noi guasti, che questi vive e minos me non lega, ma son del cerchio ove son gli occhi casti di Marzia tua che in vista ancor ti prega. O santo petto che per tua la tegni, per lo suo amore adunque a noi ti piega. Lasciane andar per i tuoi sette regni, grazie riporterò di te a lei, se d'esser mentovato laggiù degni. Marzia piacque tanto agli occhi miei, mentre ch'io fui di là, diss'egli allora, che quante grazie volle da me fei. Or che di là dal mal fiume dimora, più muover non mi può, per quella legge che fatta fu quando io me n'usci fuora. Ma se donna del ciel ti muove e regge, come tu di, non c'è mestier lusinga, bastiti ben che per lei mi richegge. Va dunque, e fa che tu costui ricinga d'un giunco schietto, e che gli lavi il viso, sì, ch'ogni sucidume quindi stinga. Che non si converria l'occhio sorpriso d'alcuna nebbia andar dinanzi al primo ministro, che è di quei di paradiso. Quest'isoletta intorno adimo adimo laggiù colà dove la batte l'onda porta dei giunchi sopra il molle limo. Null'altra pianta che facesse fronda o che indurasse vi puote aver vita, però che le percosse non seconda. Poscia non sia di qua vostra reddita, lo sol vi mostrerà che surge omai prendere il monte a più lieve salita. Così sparì. Ed io su mi levai senza parlare e tutto mi ritrassi al duca mio e gli occhi a lui drizzai. E il cominciò: figliuol, segui i miei passi, volgiamci indietro che di qua dichina questa pianura a suoi termini bassi. L'alba vinceva l'ora mattutina che fuggì innanzi, sì che di lontano conobbi il tremolar della marina. Noi andavam per lo solingo piano com'om che torna la smarrita strada che infine ad essa li par ire in vano. Quando noi fummo dove la rugiada pugna col sole e per essere in parte ove addorezza poco si dirada, ambo le mani sull'erbetta sparte soavemente il mio maestro pose, ond'io, che fui accorto di sua arte, porsi ver lui le guance lagrimose. Quivi mi fece tutto discoverto quel color che l'inferno mi nascose. Venimmo poi in sul lito diserto, che mai non vide navicar sue acque, uom che di ritornar sia poscia sperto. Quivi mi cinse, sì come altrui piacque. Oh maraviglia, che qual egli scelse l'umile pianta, cotal si rinacque subitamente, là onde la svelse. Fine del canto primo.